Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In questi giorni in cui l'idea di Europa vacilla, non possiamo non focalizzare la nostra attenzione sulle questioni risolte che riguardano il mondo dei trasporti, a partire dal cabotaggio stradale abusivo e dal fenomeno del dumping sociale, e cercheremo di valutare le possibili conseguenze della Brexit sul comparto dei trasporti. Poi si parlerà del fermo revocato da parte di Unatras e quindi torneremo sul tema della mobilità sostenibile, anche alla luce degli obiettivi che la stessa Europa a posto. Nelle scorse settimane si è palesata ulteriormente la spaccatura tra alcuni paesi, in particolare dell'est europeo, e altri come Francia e Germania, che hanno adottato misure come il salario minimo allo scopo di contrastare il cabotaggio stradale abusivo, cioè la pratica piuttosto diffusa da parte di vettori esteri che effettuano trasporti nazionali su un territorio straniero senza rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle norme comunitarie. È un fenomeno che in questi anni ha sconvolto il mercato e indotto il cosiddetto dumping sociale. Si tratta di questioni che dovrebbero rientrare nel pacchetto stradale, la cui presentazione da parte della Commissione Trasporti di Bruxelles continua a slittare, anche evidentemente per effetto di questi contrasti in seno all'Unione. Su questo punto abbiamo intervistato David Sassoli, che oltre a essere vicepresidente del Parlamento europeo è anche componente della Commissione Trasporti e Turismo. Non è un problema centrale in questo momento per l'Europa, ma per la categoria dell'autotrasporto lo è. Dumping sociale e cabotaggio abusivo. L'Europa arranca. Sì, perché sono tanti gli interessi, tanti modelli, tanti gli approcci a queste questioni così fondamentali. Ed è per questo che serve un po' l'Europa, perché se vogliamo avere mercato, le regole devono essere uguali per tutti. Non può esserci Europa disuguale. Ecco perché stiamo lavorando sia sulla direttiva porti, lavoreremo sulla direttiva autostradale, abbiamo lavorato sul pacchetto ferroviario, proprio perché vi fossero logiche preminenti da parte di chi magari anche discutibilmente si sente più forte. Noi abbiamo bisogno di standard europei e naturalmente soltanto con questi l'Europa sarà utile anche per i cittadini, non solo per le imprese. Pacchetto stradale slitta sempre. Slitta sempre, tra l'altro viene avvolto, diciamo, in una aura di mistero. Cosa conterrà? Lo capiremo dopo l'estate. Sappiamo che la Commissione europea lo trasmetterà al Parlamento a fine anno, a inizio del prossimo anno. Ci candidiamo ad essere relatori di questo provvedimento. Cosa potrebbe contenere? Questo adesso, come lo dico, facciamo i giornalisti. Ma posso essere smentito. Abbiamo fatto, tra l'altro, la scorsa settimana una verifica per capire quali saranno le linee, ma appunto il mistero continua ad avvolgerlo e vedremo. Con la Brexit l'idea stessa di Europa, come dicevamo, traballa. Ma quali saranno le possibili conseguenze dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea nell'ambito del comparto dei trasporti? Lo abbiamo chiesto a Pasquale Russo, segretario di Unatras, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci. Bisognerà capire se ci saranno poi degli accordi bilaterali, come avviene per esempio per la Svizzera, per la circolazione delle merci e dei mezzi. Quindi potrebbe, diciamo, anche, ma questo ripeto è un'ipotesi perché poi bisognerà valutare concretamente cosa decideranno di fare l'Unione Europea e la Gran Bretagna per la circolazione dei mezzi e delle merci. In linea generale è chiaro che dalle analisi che vengono fatte, quindi se queste analisi rispetto soprattutto all'export italiano dovessero attuarsi, quindi con una caduta dell'export del nostro prodotto in Inghilterra, è chiaro che anche per il settore dell'autotrasporto potrebbe esserci un contraccolpo. Nel frattempo Unatras ha revocato il fermo proclamato alcune settimane fa per protestare contro i ritardi da parte del governo nell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge di stabilità e relativi ad una serie di interventi a sostegno del comparto. Sentiamo ancora Russo. Il Ministero dei Trasporti ha finalmente trovato una soluzione d'accordo con il MEF, seppur con notevole ritardo e quindi con una insoddisfazione per le imprese che non hanno potuto beneficiare fin da subito di questi provvedimenti. Adesso la situazione si è sbloccata e quindi l'Unatras, ripeto, seppur con rammarico per la tempistica, ha deciso di revocare il fermo. Il provvedimento era quello relativo alla disponibilità delle spese non documentate per le imprese di autotrasporto minori, cioè quelle imprese che non fatturano più di 600.000 euro l'anno. Essendo bloccato questo provvedimento, non si riuscivano a sbloccare anche gli altri provvedimenti, in quanto il governo ha messo a disposizione la categoria 250 milioni, ma nell'ambito dei 250 milioni era necessario spacchettare le singole cifre per le singole misure. E quindi, per fare un caso molto concreto, abbiamo dovuto aspettare che si sciogliesse il nodo sulle spese non documentate per le imprese minore per poter beneficiare degli incentivi sugli investimenti, perché, come dicevo prima, fino a quando non c'era la ripartizione precisa da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, tutti gli altri provvedimenti, compreso quindi, come abbiamo fatto l'esempio, questo degli investimenti, non potevano essere dati alla categoria. Mobilità, e quindi trasporti di merci e di persone, nel nome della sostenibilità, è una delle linee guida del governo ed è una sfida anche per le imprese di autotrasporto. Una strada, potremmo dire, obbligata, anche per questo particolarmente impegnativa, perché ci sono obiettivi precisi da raggiungere. Su questo tema abbiamo intervistato Carlo Maria Medaglia, capo della segreteria del Ministero dell'Ambiente. Bisogna fare presto, bisogna utilizzare bene i fondi europei. Stiamo lavorando su varie forme di incentivo che vanno dirette alle imprese per muovere il mercato, perché è chiaro che tutto quello che non faremo adesso in investimenti per le imprese, per rendere più competitive le imprese e per creare posti con la green economy, le pagheremo nel 2030-2040 come multe, come sta succedendo adesso in altri campi ambientali. Ce la faremo a raggiungere questi obiettivi? Sono indubbiamente molto ambiziosi, per esempio quello del 2030 del 30% delle merci su ferrovia non è poco. Non è poco, ma mi sembra che i numeri tirati fuori oggi dalla Direzione Generale dei Trasporti diano un cambio di passo chiaro. Quando uno ha non solo i fondi, non solo la strategia, ma anche un Gantt che accompagna le attività, è normale che, come tutte le imprese, i Gantt possono essere sbagliati o possono trovare degli intoppi che uno all'inizio non si aspettava. Ma avere già un Gantt di quello che è lo sviluppo normativo e finanziario di un piano così importante è la base migliore da cui iniziare. Carburanti alternative, c'è un po' di confusione, si pongono anche degli obiettivi forse un po' fantascientifici nel sentire dell'opinione pubblica. Ma si scambia, diciamo, l'argomento con le tempistiche. È chiaro che tutti immaginiamo delle città totalmente elettriche, ma quella avverrà nel 2100, tra 2120, non lo so, questo dipenderà da quelli che sono i numeri, ma è chiaro che se investiamo molto come gli altri paesi europei nell'elettrico avremo un cambio di macchine nei prossimi 10 anni che sarà l'1% del mercato, questi sono i numeri. È chiaro che tutti puntiamo sul metano o sia liquido sia compresso? Sì, sicuramente sì, su alcuni settori come l'autotrasporto, come il trasporto pubblico locale, chiaramente sì, anche questo è una parte limitante del mercato. È chiaro che il diesel, la benzina saranno ancora lì con noi, come dicono i numeri della Comunità Europea, per i prossimi 35-40 anni, con una fetta di mercato che è tra il 65 e il 70%, è chiaro, come detto più volte, che quello che noi chiamiamo diesel e benzina varierà all'interno dello stesso nome con noi e sarà sempre più green anche nei prossimi 35 anni, per cui anche qui investire in quella che ricerca e sviluppo nel campo dei biocarburanti è sicuramente una cosa fondamentale che l'Italia deve fare, perché è uno degli asset del mercato produttivo italiano. Il 1 luglio, quindi venerdì prossimo, scatterà l'obbligo imposto dalla Convenzione SOLAS di pesare i container prima dell'imbarco sulle navi. Una misura resa necessaria per una questione di sicurezza dopo che sono aumentati gli incidenti sui mercantili causati dal sovraccarico. In alcuni casi gli scafi si sono letteralmente spezzati. Nessuno discute la legittimità della norma, le perplessità semmai riguardano le modalità operative che verranno adottate per limitare il più possibile i tempi necessari per effettuare queste operazioni e quindi scongiurare aggravi di costi. Tutti i porti si stanno organizzando e hanno individuato anche punti di pesatura in ambiti esterni agli scali per evitare l'appesantimento del traffico nei pressi delle aree portuali, in molti casi già congestionato. Seguiremo l'evolversi della situazione sin dalle prossime puntate di Hashtag Autotrasporti. In chiusura, una buona notizia che arriva dalla Sardegna. Interessa gli autotrasportatori, ma anche chi trascorre o trascorrerà le vacanze sull'isola. Dopo anni di lavoro, sono stati aperti i primi 23 chilometri della superstrada Sassari-Olbia, un'arteria a due corsie per carreggiata. Altri 4 saranno inaugurati la prossima settimana. Tempi decisamente più lunghi invece per il completamento della superstrada, che alla fine sarà di 80 km. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.